Funtime Radio presenta Ludico Forum. Buonasera e bentornati qui su Lobby Frontali. Io sono sempre Francesco Di Muro, psicologo che si occupa quindi di neuroscienze, neuropsicologia e digitale, quindi anche videogiochi o quel coso che stai manovrando adesso, che c'è davanti agli occhi. E questa è un'altra puntata di Nelle cervelle di un gamer, in cui un gamer o una gamer appunto prende un gioco che ha rappresentato molto nella sua vita e ci racconta perché è stato importante nella sua vita, cosa, come l'ha aiutato, come l'ha cambiato in qualche modo, cosa rappresenta a 360 gradi per lui, per lei ed altre ed eventuali. Io, ecco qua, riprovo ad invitare appunto l'ospite di oggi. Eccoti! E voilà! Ragazzi, ho scoperto, bisogna farlo dal cellulare, dal PC. Ah, perché tu volevi fare dal PC? No, c'è un'applicazione apposita, non volevo sapere niente. Ah, sì, sì, sì, Duck, Yellow Duck, quello là. Ragazzi, quindi vi tocca sopportarmi con il cellulare, che vi devo dire. Però fatemi mettere le cuffie, così mi sentite meglio, va? Tu non sai quanto non sopporto anche il fatto che ti devi da proprio devi instupidirti per usare Instagram, purtroppo. Cioè, e figure di TikTok, anche se editor TikTok molto migliore per quanto riguarda video, reel, queste cose qua. Sì, in effetti se sono studiata meglio i ragazzi di TikTok, quindi. No, Instagram non c'ha tutto sti interesse. Tutte cose che poi porteranno a il botto di visualizzazione, questo è qua, parlare male della piattaforma che ci ospita. Sì, porta bene, di solito, soprattutto se la possiede Elon Musk, quindi. Meno male, non ci è arrivato ancora. Allora, vi presento perché la colpa della foto. Quindi. Ah! È intenzionale. Bellissimo, è intenzionale, era tutto intenzionale, sì, un artista, sì. Allora, Puccio, anzi, Carmine Puccio Console, che per l'occasione, visto che si parla di videogiochi, diventi console, giustamente. Diventa console, come un console. Diceva il direttore della prima rivista con cui ho collaborato, che come Simone Tizzi, tra l'altro, era convinto che fosse un soprannome. In realtà no, mi chiamo console di cognome. Simone Pizzi, che fare l'origine catanese, io in realtà sono della provincia di Bari. Simone Pizzi, che tra l'altro abbiamo avuto nella primissima puntata di sta rubrichetta che parla di Disco Elysium. Allora Puccio, di che parliamo stasera? Parliamo di adolescenza. Ok, allora, adolescenza a rischio. La scienza a rischio, allora evitiamo il momento storia triste perché non è divertente. Mettiamola così. Io ho avuto la fortuna barra sfiga di avere una nonna maestra che mi ha fatto fare la prima elementare a 4 anni e mezzo, quindi con largo anticipo rispetto a quella che è la media. Quindi mi sono sempre portato dietro sta storia che sono stato il più piccolo della classe fino al diploma e all'università. Che succede? Che nel passaggio tra medie e superiori, io poi scelgo con grosso sprezzo del pericolo di fare il liceo classico, diciamo mi perdo qualcosa, no? Inizio ad avere delle difficoltà di socializzazione, non mi trovo bene nell'ambiente scolastico in cui sono finito trasportato, mi pesa la differenza con le medie dove mi andava tutto bene, dove gli amici erano contento, quindi diciamo sono un attimino giù di morale. Un ragazzo che ha fatto il quarto ginnasio con me e poi ha avuto la brillante idea di farsi bocciare semplicemente e non gliene fregava niente, un giorno vede che ho in mano stranamente un fumetto della Marvel, credo un numero di Capitan America. Che strano, guarda, non la sarei mai aspettato. Queste cose che capitano una volta nella vita. E mi dice: guarda, questo personaggio sta in un videogioco che ho visto in sala giochi qui a Putignano, dove vado io quando devo passare il tempo. Premetto, io gioco ai videogiochi da quando avevo 5 anni, da quando mi hanno regalato un Pong. Io sono nato ponghista, poi sono passato ad Atari, poi tutta la trafila Commodore. Che c'avevi? Lo Zanussi? Che c'avevi? No? No, se oddio, forse sì, quello Zanussi. Guarda, ce l'ha conservato mia madre, non lo prendo da così tanto tempo. E quindi, cioè, incuriosito da questa cosa, perché io nelle sale giochi non ero entrato molto spesso, soprattutto in quelle del mio paese, vado a dare un'occhiata e c'era Captain America and the Avengers della Data East. È un giochino medio, però tutto sommato c'è un personaggio della Marvel, comincio a buttarci monetina dentro quando esco da scuola. Alle spalle di questo cabinato c'è sempre tantissima fila per un gioco io a malapena riesco a vedere lo schermo per tanta fila che c'è, non capisco che cos'è. Un giorno che ero arrivato in un orario in cui non c'era nessuno, c'erano due ragazzi, stavano giocando a Street Fighter 2, però qui era uno scontro Ryu versus Blanca. Blanca era molto gettonato nella sala giochi di Putignano, ma non solo in quella di Putignano, io l'unico che sapevo usare, perché mi mettevo così a fare l'elettricità, basta, è buono così. Fortuna vuole che mentre ero lì che guardo incuriosito, perché mi ricordava Kung Fu Master ma molto meglio, mentre ero lì che lo guardo, entra un'altra persona che ci giocava spesso, ma non riuscivamo a incrociarci, che era un mio carissimo amico delle elementari con cui ci eravamo persi di vista. Chiedo a questa persona, Fabio, ma come funziona sto gioco? E lui mi dice, guarda, è uno contro uno, ci sono le mosse segrete con le combinazioni, il gioco era arrivato da poco, quindi molte delle combinazioni erano ancora da scoprire, eravamo in un'epoca in cui non c'era internet, c'erano le BBS più che internet, cosa che mi ha facilitato, perché scaricai la BBS di un gruppo di giocatori da sala per trovarmi l'elenco delle mosse conosciute all'epoca. Sì, no, se non puoi batterli, fateli amici, quindi in pratica mi scaricai questa lista delle mosse infinita, e diciamo mi ha svoltato questo periodo abbastanza triste che stavo vivendo, perché mi ha dato un interesse e soprattutto perché mi ha portato a socializzare con altre persone che erano fuori dal mio circuito scolastico, molto diverse da me, dagli interessi che avevo. Quindi avevamo questa passione per questo gioco che ci ho accumulato, e in più perché mi ha aiutato a sviluppare questa visione, questo approccio strategico al gioco, cioè guardare come gli altri giocavano, che combinazioni di mosse facevano, diciamo, adattarmi alla curva di apprendimento di ogni personaggio. Io mi presi questa cotta fantastica per Dalsim, che poi ho scoperto ero giustificato, perché Dalsim, poi indagando sulle varie speedrun che si possono fare con Street Fighter, è uno di quelli più usati per fare i record di punteggio, perché c'è una serie di combinazioni di mosse che ti permette di fare moltissimi punti e di farli molto velocemente, quindi di prendere più punti per il tempo. Quindi Street Fighter mi ha dato questa grossa mano sia a socializzare con le persone, è un gioco che prevedeva che il divertimento non fosse finirlo il gioco, ma fosse quello di giocare contro gli altri, quindi studiarseli anche. Sembra una banalità, ma come una persona gioca a Street Fighter dice anche molto della personalità che ha, a mio anche da personaggio che sceglie. Personaggio che sceglie, sicuramente. Diciamo, è stato il grande amore adolescenziale videoludico. Io poi ho preso questa deriva verso i picchiaduro uno contro uno, che è durata anni, dura ancora adesso. Non sono più praticamente l'unico gioco che faccio per un po', lo sono stati per molti anni. E a un certo punto ho preso talmente tanto il parete in faccia, che mi sono tipo conservato soldi, venduto roba, fatto lavoretti informatici da minorenne a nero, e mi sono comprato un Neo Geo, dove praticamente c'erano solo picchiaduro uno contro uno. Cioè, era una console pensata, costruita, realizzata con le cartucce. Molto del successo di quei picchiaduro poi dipendeva dal fatto che buona parte degli sviluppatori della Capcom furono assorbiti dalla SNK. Se vedete, tra una versione e l'altra di Street Fighter cambiano molto i nomi degli sviluppatori, perché SNK fece un rastrellamento. Secondo un libro con metodi degni della Yakuza, dei programmatori migliori della Capcom per internalizzarsi. Partecipare a questa comunità che era molto grande all'epoca, i picchiaduro uno contro uno erano il gioco, come per un po' sono state le avventure grafiche per Amiga, mi ha permesso di sviluppare delle skill sociali che mi ero perso, che semplicemente non avevo mai avuto, che partivano dall'osservazione dell'altro, dal modo di conversare, di porsi. Poi, per carità, nelle sale giochi si viene a sviluppare, in base alla bravura sul gioco del momento, una sorta di scala gerarchica che è assolutamente scollegata dai valori personali dell'individuo. Cioè, io che sono sempre stato di altezza media, ora non si direbbe, però ero molto magro, abbastanza insignificante fisicamente, avevo un grado di autorità là dentro che era più o meno pari a quello di Antonio, un ragazzo che era alto il doppio di me, il quadruplo della mia età, era ugualmente bravo. ed è tra l'altro una persona che io ancora oggi incontro da quando sono tornato a vivere a Putignano, e lui sta rivivendo l'interesse perché ha preso la PlayStation 5 e ora aspetta Street Fighter 6, ma diciamo ne ha saltati parecchi di mezzo, io mi sono proposto di aiutarli a recuperarli. La sfiga di questo tipo di giochi, dei picchiaduro uno contro uno, il Street Fighter in particolare, è che a un certo punto invecchi nella vita. Quindi, superati 25 anni, tu imbocchi una parabola discendente gravissima, e a volte trovi dei ragazzi, tolti i giocatori giapponesi con cui ho cominciato a giocare quando ho avuto accesso all'online di Street Fighter, vi do un consiglio, non fatelo mai. Ti rendi conto che c'hai dei limiti fisici che ti impongono di cambiare stile di gioco e anche di approccio rispetto alla community. C'è un esempio che ho fatto tempo fa a mia moglie: se io a 18 anni sono finito durante un viaggio in Francia con i miei genitori a fare un torneo in una sala giochi che era vicino al Moulin Rouge e a capirmi con persone di cui non parlavo la lingua, perché all'epoca bestemmiavo il francese e l'inglese così così, adesso la cosa è molto più complicata, un po' perché c'è un gap generazionale mostruoso. C'è il mio migliore amico, che in questo momento penso non mi stia guardando, ma gli manderò la Michela, che ricorda ancora con grandissimo imbarazzo un momento estremamente cringe, parliamo in termini giovani, della mia vita, in cui stavo finendo Street Fighter 2, quello base, in una sala giochi al mare dove ero andato con lui, e un ragazzino si è avvicinato dicendo: signore, posso inserirmi? E cioè Michele che mi ha appoggiato la mano sulla spalla: no, adesso lo fai anche vincere. Mi ha letto la morte negli occhi, l'ho lasciato lì. Qualche volta con sommo dispiacere di mia moglie, a volte ora non c'è più, c'era una sala giochi fuori dal cinema, andavo a fare, ma giusto per esibizionismo, devo fare il mossone finale di Akuma, il Raging Demon, giusto per far vedere a chi era lì, io lo so fare, perché ti sviluppa questa forma di vanità che è particolarmente complessa, come... è particolarmente complessa, cioè ti devi trattenere, però c'è il lottatore che è dentro di te che ti impedisce di farlo, quindi cominci a fare queste stupidaggini clamorose, tipo fare le partite solo per far vedere che sai fare le mosse segrete tutte e le sai fare al primo colpo. Quindi vedi roba tipo 50 anni che giocano con Honda solo per far vedere che lo sanno finire anche con quello. Assisti veramente a cose discutibili. Guarda, cioè, hai passato tante di quelle cose che si possono sciorinare, approfondire, passato diciamo dall'adolescenza al parlare, volendo, di skill sociali, anche skill oculomotorie, cognitive, all'invecchiamento sano e patologico, diciamo, hai uscito tante di quelle cose che davvero, cioè, lo sai che bene o male quello, l'ambito in cui mi muovo, nel promuovere anche il videogioco come forma anche di non necessariamente di terapia, anche se c'è game therapy eccetera eccetera, però comunque di supporto a tutto quest'ambito a 360 gradi eccetera eccetera, cioè è vero, cioè, a te è successo molto spontaneamente comunque, cioè, per dirti che sono cose che volendo non c'è bisogno necessariamente dello psicologo, dello specialista che ti porta a fare queste cose, se c'è e riesce a presentarti, diciamo, a girarti, diciamo, questo mezzo in un certo punto di vista, ok, però in realtà già di per sé il videogioco di default, giochi commerciali, non giochi sviluppati apposta, i cosiddetti serious game, giochi commerciali normali che se ne sbattono i cosiddetti di sviluppare, diciamo, la socialità, le skills eccetera eccetera, già di default lo fanno, cioè permettono comunque in qualche modo di avere un vantaggio in qualche modo, più che degli svantaggi che sono limitati a dei casi che già hanno dei problemi dietro, cioè come ci rivela la letteratura scientifica. E no, è interessante perché dimostra innanzitutto il fatto che a prescindere da età, sesso, razza, qualsiasi cosa, il gioco, cioè, come hai detto tu lì eri di solito, diciamo, di default in un paese, diciamo, in un paese quando ci stanno i ragazzotti, quando c'è quello grosso e quello un pochino più temuto, che ne so, invece là è nella sala giochi, a prescindere, diciamo, dalla fisicità, da altre caratteristiche, eravate allo stesso livello gerarchico con questo qua. grosso grosso, sì, ed era aspettate dai vostri sottoposti in quella, in sì, quella nicchia, in quell'area, sì, anche perché poi era uno scalino, salire una specie di scalino sociale ogni volta, cioè riuscire a battere costantemente chi ti stava sopra diventava il pretesto per superarlo dal punto di vista del prestigio, quindi ti, sì, ti dava questo, questo salire di livello tipo Dungeons and Dragons, quindi gli altri. Superarlo o umiliarlo? No, umiliarlo no. Senti, umiliarlo, trattandosi all'epoca, adesso è un po' cambiata la scena dei giocatori, all'epoca era un gioco prevalentemente maschile, anche se l'esperienza che ti dicevo prima, quando ho tentato di fare questo torneo a Parigi, tra l'altro in questa cornice bellissima, questa sala giochi che dava sul, sul Moulin Rouge, quindi avendo, beh, io sono riuscito a convincere i miei, stiamo andando lì, dicendo voi andate a vedere Place Blanche, Moulin Rouge, io faccio un salto lì, io in realtà ero lì perché lì già la scena era un po' diversa fuori dall'Italia, e difatti sono tantissime, per carità, però c'erano due giocatrici in gamba, tutte e due, tra l'altro tutte e due parliamo di Street Fighter 2 Champion Edition, questa cosa strana che usavano tutte e due Sagat, vai, una cosa comune che avevano le uniche due giocatrici che abbiamo lì, ora è più diffuso sicuramente, però all'epoca, essendo un gioco prevalentemente maschile, il fatto di prendersi a parolacce, insultarti le rispettive genitrici, sorelle, fidanzate, eccetera, eccetera, fino al quinto che vado di prendere, sì, era normale, faceva parte del gioco. Anche perché, voglio dire, in puro stile Monkey Island esiste tutta una serie di insulti che tu utilizzi per distrarre il tuo avversario. Cioè, senza arrivare a estremi come... Stavo leggendo di un giocatore di Mario Kart, o di una mamma, che stava guardando marito e figlio giocare a Mario Kart, il figlio abbastanza grande, e papà per distrarlo gli ha detto io mi scopo tua madre, e lo spingeva. E lei che diceva, immaginate io come potevo reagire a una cosa del genere. Quindi, diciamo, il rapporto che ti viene a creare spesso tra giocatori di sesso maschile, nel momento in cui vuoi vincere una competizione, ti porta a fare e dire cose che... Sì, allora, un po' non è detto, anche secondo me tra quelle del genere femminile, lascia stare, secondo me. No, vabbè, io ho visto poche danno a giocare uno contro l'altra. Io ogni tanto sento mia moglie quando gioca a Mario Kart, che... per carità, non diventa penalmente perseguibile. No, non è vero, no, no. Io soprattutto non sarà una cosa, cioè io ho visto sia donne giustamente calme, sia donne che niente, cioè alla, cioè portami via, cioè scendeva direttamente il padre dell'Eterno e diceva ma che t'ho fatto, perché, cioè hai solo perso. Perché bella, perché qui lancio un altro argomento, il fatto che comunque il videogioco, cioè a prescindere, cioè è vero che ora c'è molta, oppure si vorrebbe avere molta più attenzione nel rispetto, nell'integrare una certa fetta, nel fare qualcosa che non andasse ad alienare, dico così, di default una certa fetta di popolazione, cioè quella femminile, dico, quindi c'è un po' più attenzione magari a dargli, diciamo, a non mettere sempre banalmente il personaggio maschile oppure il personaggio femminile non necessariamente ultra sessualizzato, eccetera, eccetera, c'è più attenzione, però da questo punto di vista, guardate, ancora adesso c'è, cioè, parecchia strada da fare, perché comunque i personaggi, sì, che ti porta o sono, ma è un problema legato non a Capcom, c'è Luba che è tipo Bayonetta, dove ha inserito dei personaggi, sì, fortemente sessualizzati, ma che comunque è perché è partito da un disegnatore di Capcom, Bayonetta. è vero, però con delle caratteristiche particolarmente moderne. Il problema è che all'interno della subcultura giapponese dei giochi uno contro uno di lotta c'è parecchia strada da fare in questo senso. Anche il, diciamo, il rivale storico di Street Fighter, che è la serie Gears, i personaggi che propone sono in realtà abbastanza stereotipati. Io sto giocando nella partita di Street Fighter 6 molto all'ultimo Guilty Gear, guardando le hall di attesa dei match online, ci sono molti più nickname femminili di quanti ce ne avevo su Street Fighter 5, perché probabilmente quel tipo di audience è più portata verso i personaggi di Guilty Gear, perché non saranno tra virgolette modernissimi, però sono meno stereotipati di quelli che hanno realizzato finora per Street Fighter, con il vantaggio che ha Street Fighter di aver introdotto il primo lottatore transessuale nella storia, che è Poison. Oh, grande. Che era portato un personaggio di Final Fight, era la tipa enorme con i tacchi, ah, e sì, sì, sì, sì, alla fine si è rivelato così, no? È un sì, infatti, è un transessuale, che in realtà era scritto esplicitamente nella versione giapponese, veniva fatto capire. Sì, sì, sì, è vero, questa cosa lo sapevo, questa cosa l'ha fatto capire, però in Occidente, cioè, hanno ricambiato. Sì, come le croci, tutti i simboli religiosi esplicitamente cattolici, no? Quando arrivano in Occidente diventa tutto qualcosa di diverso. Comunque, cioè... E poi voglio dire, hanno dovuto fare alcuni cambiamenti minimi, tipo avete presente il fondale di Honda, che era il bagno termale giapponese, c'era la bandiera della marina militare giapponese che lampeggiava, quella cosa in Asia è tipo la svastica per noi. Per noi, per i giapponesi no, per il resto dell'Asia sì. Quindi nelle versioni di guerra quella roba è stata comodamente fatta sparire per evitare riferimenti ai trascorsi imperiali giapponesi. Quindi, c'è un minimo di attenzione, non quella che ci aspetteremmo, ma c'è. No, c'è. Da questo punto di vista si migliorerà. Alcuni possono dire che alcuni tentativi possono essere troppo, diciamo, azzardati, oppure troppo, diciamo non così fatti bene, un pochino così arronzati, diremo così, un pochino approssimati, alcune cose, però ci si avvicina per approssimazione, perché è vero che ci sarà sempre quello che dirà però non si può più dire niente, eccetera eccetera. Qua vabbè, non voglio allargarmi più al discorso generale del politicamente corretto, ci allontaniamo poi dal discorso di questo, però comunque la tendenza, diciamo, tra tentativi più o meno riusciti, la tendenza è quella comunque di allargare la platea, proprio di far, non so, perché si è visto che non solo c'è un vantaggio dal punto di vista sociale, ma anche banalmente, se vogliamo parlare in metodi, diciamo, in termini proprio utilitaristici, anche dal punto di vista commerciale, cioè tu ti ampli, diciamo, a un, sì, una platea più grande. Cioè una platea banalmente maggiore che prima stavi trascurando. Cioè, mi faccio pure sempre l'esempio, invece di lamentarti, per esempio, che ristoratore, ah che palle che mo ci stanno tutti sti celiaci, che mo ci stanno tutti sti vegani, eccetera eccetera, invece di lamentarti e di non fare niente in merito, in voi e Rospo proponi 2-3 piatti giusto per loro, normativi, fai, diciamo, fai la richiesta, diciamo, normatizza, diciamo, per quanto riguarda la celiachia, e vedi che diviene molta più gente, cioè. Banalmente. Noi stiamo vivendo in famiglia la questione, perché ho Clelia che si è scoperta intollerante non al lattosio, più subdolo, a una proteina del latte, quindi non basta che sia privo di lattosio. E per esempio abbiamo scoperto che questa cosa è in realtà più diffusa di quanto ci siamo aspettati, e c'è un forno putignano che ha iniziato questa linea di prodotti priva di latte, prevalentemente per i vegani, ma anche per chi ha questo tipo di problematica digestiva, mettiamola così. È interessante, quindi questo tutto partendo da un videogioco di lotta. Da bar degli anni 90. Quindi. Un videogioco da bar degli anni 90, che pure io, cioè, volendo, cioè, forse io per esempio, molte persone, diciamo, immagino pure tu, sì, come hai detto prima, ti ricordi il tuo primo videogioco. Io per esempio non me lo ricordo perché è cioè ci sono delle reminiscenze, delle commistioni tra nella sala giochi già da bambino, proprio, cioè elementare o poco prima dell'elementare, che mi portavano i miei fratelli quando andavano a FIFA, e loro mi portavano appresso, eppure ma a casa avevamo anche un Commodore 64 che ogni tanto risumavano, quindi non ti so dire, probabilmente forse il primo gioco che ho giocato forse è stato qualcosa in sala giochi, però uno dei primi giochi proprio mi ricordo proprio in modo vivido è proprio Street Fighter, e mi ricordo proprio la scena, proprio che io vabbè, forse avevo ascoltato in televisione che si chiamava Street Fighter invece di Street Fighter, e mi ricordo che tipo entrai in una sala giochi dove c'erano degli amici, comunque la gente adolescente, era proprio bambino, proprio un muccusiello di quelli muccusi, ma davvero, vedi, ah, c'è Street Fighter, tutti quelli mi guardavano, oh, cazzo, come tipo il piccolo genio che parla inglese, cioè, no, l'ha detto corretto, l'ha detto corretto, cioè, mi ricordo sta scena, quindi in qualche modo è forse il primo, uno dei primi videogiochi che mi ricordo, ma sicuramente non ti so dire se è stato il primo videogioco che ho giocato, ripeto, rispetto a te non sono mai davvero stato appassionato di giochi di lotta, poi ho scoperto un mondo a capire che davvero c'è tutta una scuola, cioè comunque c'è tutta, cioè, oh, c'è molto skill based, sì, basato sì, proprio sull'abilità, quindi sull'affinare poco a poco proprio sull'allenamento, infatti ho molti e-sporter, cioè molta fetta di e-sport, quante volte ho detto fetta, la di stasera, molta fetta di e-sport, cioè gioca anche di giochi di lotta, ma proprio lì c'è uno studio proprio categorico sulle animazioni, sul frame, sì, una sensibilità davvero al frame, al millesimo di secondo, lì davvero vedi, davvero inizi a vedere davvero la Matrix, ovviamente c'è effetto tutto quasi rallentato, così focalizzato, e riesci davvero a vedere qualsiasi. No, per avere una misura di questa cosa, poi magari ti mando il link, se cercate su YouTube Daigo, scritto D-A-G-O, D-A-I-G-O, Daigo Perry, P-A-R-R-Y, vi appare un video registrato a un Evo, un torneo di Street Fighter di molti anni fa. Il gioco su cui si combatteva all'epoca era Street Fighter 3, l'ultima versione, perché ne ha avuto tre edizioni. E c'è questo ragazzo giapponese che con una calma glaciale para la super mossa di Chun-Li, che era questo calcio a ripetizione difficilissimo con Ken. Lui aveva zero energia e usava Ken, gli ha parato tutti i calci facendo la mossa che annullava e quindi non prendevi danno, faceva indietreggiare di un minimo chi te la stava facendo, credo che siano tipo una ventina di calci, li ha parati tutti in sequenza e dietro si è sentito un ululato tipo stadio finale dei mondiali, perché tecnicamente non era una cosa considerata possibile. E lui stesso, che insomma, è ancora oggi uno dei guru di Daigo Umehara tra i giocatori di giochi di lotta, ripete che non è sicuro di poterla fare. In realtà, in alcune occasioni l'ha rifatta quasi a memoria, quindi penso che dietro ci fosse uno studio e un allenamento incalcolabile. Sì. Che poi paradossalmente mi ricollego proprio alle neuroscienze pure, cioè, anche se non so se probabilmente ci sono degli esperimenti che hanno visto il cervello quelle sugli esporter ci sono, sui gamer pure sugli speedrunner, cioè, addirittura. Però ti faccio una domanda così: secondo te, diciamo, le aree, diciamo, cerebrali dedicate, diciamo le aree cerebrali dedicate a Street Fighter in un giocatore esperto sono più accese, più intense, più attive o meno attive? Più attive, devo dire, perché No, perché la coordinazione occhio-mano che ho sviluppato lì mi è tornata utile. Allora, incrementa, cioè nel senso probabilmente sia corteccio motore, corteccio, diciamo, più frontale per le decisioni veloci, eccetera, eccetera, sensore, eccetera, eccetera, probabilmente è più espanso, cioè nel senso c'è stata una plasticità maggiore, quindi più connessioni nervose sono formate, però questo ha raffinato in qualche modo quell'abilità, per cui c'è bisogno di meno risorse per attivarla, diventa buona parte automatizzata. E spesso questo succede quando uno diventa molto esperto in una cosa, un musicista, paradossalmente diventa più grande quell'area, però diventa meno attiva rispetto a un utente, rispetto a una persona che non è esperta. Sì, poi con la vecchiaia, per esempio, tu lo sai che comunque ci sono, anche se non è proprio netto, proprio diviso, comunque ci sono, diciamo, delle competenze di specializzazione tra emisfero destro e emisfero sinistro. Banalmente il sinistro più per il linguaggio e altre cose, il destro più per le competenze visuo-spaziali, diciamo, e non logica e creatività, quella è una puttanata pazzesca. Nella vecchiaia, per esempio, si vede che c'è uno shift in cui diventa meno sfumata sta cosa, proprio perché diventa meno efficace, il cervello ha bisogno di più aree per compensare, diciamo. È la stessa cosa quando tu acquisisci un'abilità in modo così ottimale, innanzitutto non c'è più bisogno di quella concentrazione È un pochino come diventa automatizzato, è un pochino quando impari a guidare la macchina, che all'inizio, cioè, tu controlli ogni minimo momento, ogni minima cosa, poi fai gli incidenti tranquillamente perché la guidi in automatico. La stessa cosa, non è che poi in qualche modo le aree che prima erano super concentrate si rilassano e delegano tutto a qualcosa di automatico, diventa molto più efficace la connessione, quindi consumi meno energia. Ci sei cascato, vabbè. È una cosa assolutamente è una cosa sistemista, che ti posso dire, queste cose io faccio il sistemista. Tu fai il net runner. Immagino tu che fai il net runner. Tra l'altro ci sto giocando finalmente. Prima che lo sto giocando un po', dai. No, io ho fatto una seconda run perché volevo vedere alcune cose che mi ero perso prendendo determinate scelte. Adesso c'è anche l'espansione, dai, ti trovi bene. Sì. No, io spero che... No, lo so che tipo... qua andiamo nel nerd puro, vabbè, lo so che per esempio con Google ti puoi scaricare tutti i dati, eventualmente usarli, però preferirei d'accordo con Google e dicessero facciamo... Come hanno fatto tra l'altro con The Witcher, che c'ha tutti i salvataggi, cross-platform, eccetera, eccetera. Non sarebbe... Vabbè, qua andiamo davvero sullo scaccia donne non nerd, diciamo così. Cerchiamo di essere così. Aspetta che ti faccio vedere una cosa, vediamo se riesco a voltare la videocamera. Questo bestione che vedete qui, mm-hmm, in realtà la storia del gioco, dove sono poi riportate storie di persone che sono diventate professionisti. Più o meno tutti dicono la roba che ho detto io, che alla fine il bonus è stata la comunità che si è creata intorno al gioco in un periodo in cui internet non c'era, quindi che ha consentito alle persone di fare gruppo, di non essere isolate semplicemente perché ci si sfidava uno con l'altro. Vedremo ora che esce il 6, dove pare che Capcom abbia investito tantissimo in un sistema un po' open di world, sì. Vogliono fare in modo che anche il gioco offline. Non competitivo sia sfidante, e quindi pare che abbiamo questo sistema che impara dalle partite dei giocatori. Sono curioso, lo voglio vedere, lo prenderò quando uscirà. Ammesso che esca per PC, perché trovare una PlayStation 5 non è esattamente facilissimo. No, è migliorata la situazione, ma ancora non è facile, lo so, comunque. No, tocca aspettare, da tanto se ne parla nel 2023, certo. Posso invecchiare ancora e diventare incapace di reimparare a giocare. Sì. Comunque, guarda che è un bel allenamento. Cioè, non diventi bravo a dare mazzate, perché non c'è, diciamo, la conversione al mondo reale, però comunque resti bravo a Street Fighter, comunque è sempre comunque plasticità che si mantiene. C'è una storia legata però a Guilty Gear, non a Street Fighter. No, di un signore di una certa età che è giapponese, la figlia gli presenta il fidanzato, viene fuori nella discussione che anche il fidanzato gioca a Guilty Gear, si reputa bravino. Questo signore l'ha spiegato in una serie di post su Twitter, dice: tutta la mia famiglia gioca a Guilty Gear, io vengo considerato di medio livello tra i miei fratelli, i miei cugini. Abbiamo giocato, lui ha preso il personaggio che io odio di più e già lì ho capito che non era adatto a mia figlia. Lui ha preso un personaggio che sapeva usare meglio e ha umiliato questo povero ragazzo più volte. Quello che però ne ha ricavato non è che la figlia ha provato, bravo mio padre, lui è indegno di entrare in questa famiglia, no, mamma e figlia si sono coalizzate contro il padre che aveva umiliato il ragazzo e l'hanno mandato a mangiare fuori, mentre il ragazzo è rimasto a cena con madre e figlia. E lui postava tutto orgoglioso questa cosa su Twitter dicendo: ora sono in una locanda che mangio da solo, ma il mio onore è intatto. Ho combattuto il fidanzato degli altri. Quindi più o meno porta a questi estremi l'attenzione eccessiva a questa tipologia di gioco. Sì, davvero. Come hai detto tu, fa uscire fuori tanti caratteri, tante cose. Quasi, cioè, uno pensa forse più giochi di ruolo perché sono più aperti, puoi fare più cose, più personalizzazione. In realtà anche giochi che hanno le cose preconfezionate, tra virgolette, ti fanno uscire la tua personalità, permettere, cioè, di lavorare anche su aspetti della tua personalità, eccetera, eccetera. No, banalmente sull'aggressività, perché una delle prime cose che impari giocando è che se giochi troppo aggressivo la prendi. quindi devi cominciare a mediare la paura di darle, la paura di prenderle. Era l'elefante nella stanza, davvero. Cioè, ho pensato tutte le applicazioni, l'unica cosa, cioè, cavolo, cioè, ho talmente tolto dalla mente il bias che il fatto i videogiochi non sono violenti, eccetera, eccetera, non generano violenza, eccetera, eccetera, che cavolo, non ho considerato che comunque degli elementi di violenza, di aggressività, cioè, però non sono un elemento anzi, sono un elemento che, con cui puoi iniziare, diciamo, a lavorarci su, perché mi hai detto, lì andare troppo a sprontattuto, aggressivo, menare, cioè, fare a caso... No, non ti porta a vuol dire non ti perdere, è abbastanza, è una cosa che impari subito. L'eccesso di irruenza, la violenza eccessiva nella serie di combattimento solitamente non ti porta a niente, quindi devi imparare, la prima cosa che impari è a controllare la cosa più stupida, voler far vedere all'avversario che sai fare una mossa particolarmente complessa e molto aggressiva, generalmente vuol dire che tu quel round lo perdi. Perché il tuo desiderio di aggredire l'altro in questa maniera solitamente ti espone a velocissimi contrattacchi, quindi impari a dosare le forze, impari a essere meno aggressivo, impari a reagire più che agire, è una bella palestra. Sì, chissà, la parte della droga, come direbbe Elio. Chissà se c'è un trasferimento di questa cosa, diciamo, quanto può essere potente come trasferimento anche nelle competenze sociali reali, nella gestione dell'aggressività della cosa, chi lo sa, cioè può essere in automatico, non lo so, probabilmente se giustamente uno ti guida, ti illumina, ti fa avere consapevolezza, probabilmente sì, però chi lo sa se ci sono degli... Tu però, dati puramente esperienziali, quindi non scientifici, secondo te può aiutare davvero generalmente proprio a gestire anche la parte. Ti aiuta ad adattarti alle situazioni, perché al di là del gioco in single player, dove ogni lottatore ha uno stile suo, ma i lottatori sono contati, le persone che incontri giocando, ognuno gioca a suo modo. È vero che esistono tecniche più o meno diffuse, ma la maniera in cui quelle tecniche le applichi deriva molto da come il carattere di una persona. Quindi impari ad adattarti spesso allo stile di gioco dell'altro, soprattutto se è un avversario nuovo. Impari ad attendere, impari ad osservare, ti aiuta. A me, se faccio mente locale su sta cosa, ti posso dire, mi ha aiutato molto sul lavoro, perché mi ha insegnato a osservare il problema prima di buttarmici contro, che non è esattamente una skill che impari sui libri, è una roba che ti deve venire o da esperienza o da una simulazione di un qualche tipo. A me è andata di culo è stata questa, ad altri sono stati giochi di strategia, gli scacchi, infatti, sport che pratico pure io, per carità, però diciamo ti danno un livello di soddisfazione a livello adrenalinico un po' più basso rispetto a un gioco di lotta uno contro uno. Sì, perché è vero, ti insegna comunque, cioè comunque strategia, metodo, attenzione, tutta analisi del problema e tutto, però tutto in un contesto che mi hai detto comunque molto più coinvolgente, che è tipo dei videogiochi, che è tipo un gioco di lotta, cioè come hai detto tu, adrenalinico comunque, quindi molto più stimolante. Per esempio, per quanto posso essere meravigliosi gli scacchi, però per esempio se vuoi usarlo come metodo ludico a dei ragazzini, a qualcuno, per imparare a gestire l'ansia, per imparare il problem solving, la capacità di analisi oppure anche di gestione della rabbia, gli scacchi te li butta appresso, soprattutto se di default c'è un deficit proprio di controllo proprio delle emozioni. Invece con Street Fighter è già, cioè un gioco di lotta è già meglio. Poi lo passo anche agli scacchi volendo, cioè non sto dicendo che gli scacchi bleh, cioè dipende da persona a persona, può darsi pure che... No, ma dipende anche, cioè, il fatto che ci sono alcuni giochi come possono essere gli scacchi e il Go, che hanno questo alone di autoriale intorno, dove sì, è il gioco delle persone geniali, è il gioco delle persone attente, calme, razionali, non è vero, se andate a un qualsiasi torneo di scacchi ve ne rendete conto, o di Go, visto che adesso va abbastanza di moda, non è così, in realtà non è detto che ti aiuti necessariamente se non lo stai vivendo come una roba ludica. Gli scacchi sembrano più qualcosa che ti devi studiare, cosa che devi fare in realtà anche con Street Fighter, ma in una maniera, cioè, po' più free, che non risente neanche del, dell'alone di mistero che sta intorno agli scacchi. È anche una questione di contesto, probabilmente. Fantastico. Che dici, Cuccio? Ce l'abbiamo detta, cioè, abbiamo parlato di tantissime, cioè, poco più di mezzo. Mi avete fatto salutare Rico, il mio amico che sta in Germania, che a differenza nostra è una persona seria, lavora all'Istituto Planck come ricercatore biomolecolare. Al massimo. Dico, ho detto una cazzata, scrivila. Tipo che per un'altra roba sei diventato bidello perché ti hanno promosso, scrivilo, va bene. C'ha dei figli meravigliosi, uno si chiama come il mio, Pietro, e anche lui grande appassionato di videogiochi. Ho scoperto di tuning di automobili. È piccolino, dai. Quando avrà la macchina, quando prenderà la macchina del padre, non sappiamo che succederà. Sarà pericoloso. Oppure fa arrestare il padre perché non è a norma. È italiano in Germania, già sai che non l'abbiamo arrestato prima. Okay. A Dresda, anche questa canzone. A Dresda. Mamma mia. Va bene. Oh, allora, ci siamo detti tutto, Francesco. Ci siamo detti abbastanza tutto, è stato davvero molto, molto intenso. No, ti ringrazio perché tra l'altro adesso Simone mi picchierà, perché questo era l'argomento di quella cosa che io gli dico sempre, verrà fuori a runtime di notte, quando io scherzando dico che in qualche modo i videogiochi mi hanno salvato la vita. La storia banalmente è questa. Adesso, cioè, siamo detta qua. Però tu alle 9:30 vai a letto, anzi alle 9:30. Ho due figli, sto dormendo. Sì. Potevi registrare, proprio manderò sto pezzo. Questo pezzo, lui lo passerà mentre io dormo. Va bene, poi ci voglio chiedere una cosa, approfitto. Allora, innanzitutto, vabbè, mi ha fatto piacere, cioè, è tutto, eccetera, eccetera. Visto che comunque quello che abbiamo vagamente accennato, tu comunque ti occupi di sicurezza informatica a livello professionale proprio. Tra le varie, comunque ne capisci un po', diciamo, non sei... Mi difendo. Forse già te l'ho chiesto, diciamo, se una volta, sempre una diretta, però non parlavo di videogiochi, visto che comunque io mi occupo comunque di digitale a 360 gradi, anche come diciamo, usarlo meglio consapevolmente, strategie psicologiche per evitare rischi, altro, se ci ritagliamo qualcosa per parlare proprio di... Come dici, cioè, cerchiamo di montarci una cosa, sempre a chiacchierata così, cioè, comunque stai diretto. Non posso entrare nel lato tecnico, rimaniamo dalla parte. Sì. Divulgative, chiacchieratose. Ci mettiamo due punti insieme e vediamo. Se vuoi, se sei fatto schifo. No, è disponibilissimo, figurati. Nel frattempo mi trovo anche uno stand per il telefonino, perché visto che non sono riuscito col PC, evito di tenerlo in mano. E di farmi sembrare affetto da qualche forma strana di tremito alle mani. Vabbè, è normale. Grazie di tutto. Quindi l'appuntamento è per le dirette settimana prossima. Già ho delle dirette in programma su Da Sistema con te lunedì. Allora, sto qua. Ci vediamo lunedì a OGM. Va bene. Ciao, ragazzi, grazie di tutto. Buona serata. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte!